ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti lascerò. Non è una fiaba, l'amore nasce, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, mia piove, piove sul nostro amore. Sina, suonala! Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Come una fiaba l'amore nasce, c'era una volta, poi non c'è. La la la la la la la la la la la la. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. Ciao bambina, ti voglio bene da morire, ciao bellissima. Che le vaya muy bien, sigan divirtiéndose, molto grazie. Marcellino Pane e Vino. In questo mondo tanto grande, noi siamo tutti dei piccini. Dalle Abeline alle Andre, de San Francisco a Pechino, ce lo dimostra un raccontino di un bel bambino che è un tesoro. Marcellino Pane e Vino, terra ciuto chiude il cuore. Quel piccolo trovatello è stato deposto di sulla porta del convento per vederci così. Marcellino, ricordate, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino, ricordate, Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino. Se io chiamo a farti affare con sono transione e via diciamo, noi non vediamo che dinare, sognano solo il milione. Dimentichiamo le cose belle e quindi nascono dei vai. Marcellino Pane e Vino, non l'avrete fatto mai. e 12 fraticelli che la nostro batton di sulla porta del convento ci ripentono così. Marcellino, ricordate, solo pane e solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino, ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino, Marcellino, Marcellino, Marcellino, Marcellino. Mi vuoi lasciare e tuoi vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Entra tu. Ti voglio volare, volare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella neve a cui fuggir non potrai. Thank you. Thank you. O sea, sí, tranquilo, ¿no? Sí. Grande amor es más que un grande. Salve. Esisterà. Tranquilo, ¿eh? A ver. Un, dos, tres, un. Thank you. Pito, o de repente ha sido de frente. Para que tú lo sigas. Bien. O de repente me meto a cantar también. Ya, o sea, bueno, básicamente eso. ¿Cómo ya, ok, ya.